Si può fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo. Siamo lontani, possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forte.